di dare la vita per gli altri e non di conservarla per sé. Però in quegli anni in El Salvador più di 40 sacerdoti furono uccisi, torturati, espulsi dal paese. Perché allora l'omicidio di Romero è diverso dagli altri? Non è diverso dagli altri. Romero ha iniziato la sua opera di denuncia annunciando il Vangelo proprio perché vedeva che c'era un clima di persecuzioni. Romero si è... Beh, però lui poi è stato beatificato, quindi qual è la differenza? Non c'è nessuna differenza, perché si ha intenzione di avviare processi di beatificazione anche per tutti questi martiri senza nome. Romero ha avuto il coraggio di parlare alla nazione e al mondo anche di queste morti, denunciandone l'ingiustizia. Quindi in questo senso Romero li rappresenta tutti, in un certo modo tutti. Ma Monsignor Paglia, lo abbiamo raccontato, Oscar Romero ha quasi annunciato la sua morte, lo sentiva che stava per morire? Sì, lo sentiva, ne aveva paura, ne aveva timore, per questo io dico che non era un eroe. E si racconta lui stesso che quando di notte a volte cadeva qualche frutto dagli alberi che circondavano la sua capannetta e lui si svegliava di soprassalto pensando che fosse una fucilata. Quindi aveva molta paura. Molta paura, e spesso lo diceva e lo scriveva anche nei suoi diari, però aggiungeva: il Signore che sta vicino ai suoi figli mi saprà dare la forza anche in questo momento. Insomma, un uomo di grande fede. Monsignor Paglia, ma lei ha promosso un convegno anche sulla storia di Romero, perché? Appunto perché volevo mostrare, non in maniera emozionale, ma in maniera documentaria, che c'era un mare di ingiustizie, che l'estrema destra aveva creato un clima di persecuzioni con morte violente e che Romero reagiva a questa situazione partendo dalla sua fedeltà al Vangelo, ai documenti della Chiesa, soprattutto quelli del Concilio Vaticano II. Riprendiamo da qui, subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24, stiamo raccontando la vita di Oscar Romero, vescovo ucciso nel 1980 e beatificato sabato scorso a San Salvador. Monsignor Vincenzo Paglia, postulatore della sua causa di canonizzazione. Ecco, Romero per le popolazioni dell'America Latina era già santo. Che cos'è così attuale nella sua figura? Oggi io la vedo particolarmente efficace, nonostante il mondo sia cambiato tantissimo, perché Romero, rispetto ad esempio alla violenza che si allarga nelle nostre città, penso all'ISIS, al terrorismo, o penso alle maras delle grandi megalopoli latinoamericane, ecco, di fronte a questa violenza che toglie la vita degli altri, Romero dice: la vita si dà, non si toglie. Monsignor Paglia, lo abbiamo raccontato, Romero all'inizio però era un conservatore. Perché allora fu scelto proprio lui come primate a San Salvador? Ma Romero, più che conservatore, era un uomo, diciamo, tranquillo, umile, timoroso, e quindi fino a che era sacerdote e poi vescovo di una piccola diocesi è stato, tra virgolette, quasi nascosto, e proprio questa sua moderazione fu uno dei motivi per cui lui volesse essere arcivescovo. Quando fu nominato arcivescovo e lui si trovò di fronte al fatto di una persecuzione che iniziava ad essere terribile e lui era il responsabile, Romero, gli ammazzarono il prete più amico che lui aveva, appunto la morte di Rutilio Grande, decise di prendere il suo posto e lui scrive che ricevette come una forza dal cielo. Ecco, però, Monsignor Paglia, lei in un'intervista ha detto: bisogna sgombrare il campo da molti luoghi comuni legati alla figura di Romero. Quali? Cioè, la strumentalizzazione a cui accennava prima? Sì, certo. certamente uno luogo comune che Romero fosse un politico, l'altro luogo comune che Romero è legato strettamente alla teologia della liberazione, alcuni lo avevano Che Guevara e così oltre. Romero in verità è un credente, direi ordinario, con una grande passione per la predicazione, che quando si rese conto di essere l'unico che poteva difendere i più poveri, lui ha cominciato a parlare forte, a gridare in nome del Vangelo che bisognava rispettare la vita di tutti partendo da quella più debole. In quegli anni, appunto, difendere i poveri in Sud America voleva dire sposare la teologia della liberazione, ed era così anche per lui? No, lui anzitutto diciamo che la teologia della liberazione è un mondo complesso e variegato. Quando gli chiesero a lui se era della teologia della liberazione, lui dice sì, ma di quella di Paolo VI, ossia una liberazione integrale e totale, e non una liberazione che facesse uso semplicemente della violenza per trasformare solo le strutture amministrative, economiche o statuali. Romero richiedeva una liberazione profonda anche dal proprio egoismo e dal proprio peccato, e chiedeva di liberarsi dal demone della violenza di una parte o dall'altra, perché la violenza non genera mai pace. Che non era proprio semplice in quel momento a San Salvador. Assolutamente no, infatti lui era molto comprensivo anche con i movimenti popolari, tuttavia richiamava gli uni e gli altri a capire che c'è l'urgenza di cambiare le strutture anche, ma bisogna cambiare se stessi oltretutto, e tutto quanto attraverso l'azione pacifica, anche robusta, anche di denuncia, anche di sostegno vigoroso. Ma è vero che Paolo VI e Giovanni Paolo II gli avevano consigliato di essere più equilibrato, però poi lo avevano anche incoraggiato a proseguire per la sua strada? Allora, Paolo VI era il papa ideale di Romero, e quindi lo difese e gli disse a lui nell'ultima udienza che ebbe di sentire tutta la responsabilità di essere il pastore del suo popolo e doveva difenderlo. Con Giovanni Paolo II all'inizio, proprio perché Roma era piena di accuse contro di lui, ci fu qualche momento di titubanza, sebbene comunque Giovanni Paolo II, l'ultima volta che lo vide, quindi un mese prima della sua uccisione, gli disse di continuare. Ma le accuse contro Romero, lei dice la Chiesa era piena di accuse contro di lui, contro Romero in quel momento? Assolutamente sì, sia le autorità civili locali, quelle governative, poi quelle di parte della Chiesa del Salvador, poi parte anche della gerarchia latinoamericana. E alla fine Giovanni Paolo II poi, dopo un attimo di titubanza, invece poi lo ha incoraggiato. Assolutamente, sono convinto che il giorno in cui Giovanni Paolo II apprese della morte di Romero ucciso sull'altare, ebbe come un'illuminazione. Perché morire sull'altare mentre si celebra la messa ucciso da un killer è una di una simbolicità enorme. Grazie.